2024 2024 di Enrico Pagliarini. Sono le 15:33 minuti, bentornati a 2024, benvenuti, questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Ogni settimana ci facciamo una domanda, anzi più domande, cercando di spiegarci e spiegarvi come la tecnologia ci cambia la vita, e sicuramente negli ultimi anni la vita di molti di noi è cambiata proprio grazie agli strumenti tecnologici. Anche oggi parleremo delle ultime novità, faremo anche alcuni approfondimenti ricapitolando quello che è successo durante l'estate. È stato un agosto pieno di notizie, anzi direi che il mese di settembre è iniziato con poche notizie rispetto a quello che ci aveva abituato agosto, dove è successo di tutto. Saluto Luca Figini, che è responsabile di portatili e tablet. Bentornato a 2024, Luca, ciao. Ciao Enrico e buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che ci ascoltano. Saluto anche Pietro Lacorte, che oggi si occupa della parte tecnica. Vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci in diretta anche oggi, 800 24 0024. Oggi parleremo di molte cose, tra poco ci occuperemo del caso che contrappone Samsung e Apple al tribunale di Düsseldorf. Ieri il tribunale ha dato ragione a Apple, ma questa è solo una delle 19 cause che contrappongono le due aziende. Poi, l'avete sentito anche nel sommario di poco fa, parleremo anche delle ultime novità in arrivo, anche se ce ne sono state poche di novità, dall'IFA di Berlino, quindi rimarremo in Germania. Ci faremo alcune domande su un settore in forte crescita che viene definito e-ticketing, cioè la bigliettazione, la vendita di biglietti online, e visto che questo è un weekend in cui inizia il campionato di calcio, ci siamo domandati: ma è possibile, soprattutto quanto è facile acquistare un biglietto digitale su un sito di una squadra di calcio italiana? Ne sentirete delle belle. Dunque Luca, che cosa è successo a Düsseldorf? E che cosa ha detto il tribunale di Düsseldorf ieri, dando ragione di fatto alla Apple? Sostanzialmente ieri si è chiuso un caso, anzi si è quasi chiuso un caso legale che va avanti da tutta l'estate, e in questo caso Apple ha vinto, si può dire, nel senso che Samsung Germania, quindi la sede tedesca della Samsung, non potrà più distribuire i tablet, quindi Galaxy Tab 10.1 e anche 7.7, che è stato presentato all'IFA di Berlino. Allora, diciamo che l'azienda si è rivolta al tribunale di Düsseldorf, dove storicamente i giudici danno spesso ragione, comunque con una percentuale più elevata rispetto ad altri tribunali, sia in Germania che in tutto il mondo, ai detentori di brevetti. C'è una lotta di brevetti che è in atto tra queste due aziende, ma un po' in tutto il mondo dell'elettronica di consumo, direi con particolare attenzione al settore degli smartphone, dei tablet, sia sul fronte hardware che sul fronte software. Di fatto questa è una vittoria simbolica più che concreta, perché poi in Germania questi tablet si troveranno. Assolutamente sì, è assolutamente una vittoria simbolica e ha un po' il senso di ribadire la supremazia di Apple nei confronti del design, perché quello che ha fatto vincere Apple è proprio la similarità tra i Galaxy Tab e l'iPad, e quindi è stato definito l'iPad come quello originale. In Europa, oltretutto, Apple e Samsung si confrontano anche in altri tribunali come quello dell'Olanda. La lotta dei brevetti poi è al centro, come dici tu, della supremazia, nel senso che sui brevetti poi si gioca la superiorità di un'azienda o dell'altra di produrre innovazione in due segmenti in forte ascesa, che sono quelli degli smartphone e dei tablet. Giusto per ricordare una cosa importante che è successa durante l'estate e che è collegata al mondo dei brevetti, cioè il tema di cui poi stiamo parlando, Google ha annunciato di aver acquisito Motorola quest'estate, pagando 12 miliardi di dollari, se non sbaglio, Luca, e soprattutto puntando al ricco carnet di brevetti che Motorola ha. Assolutamente, a questo punto sembra che ci sia proprio un mercato dei brevetti, ovvero nel momento in cui le azioni delle società vanno in alto e in basso e quindi seguono flussi che non sono prevedibili, la dote di un'azienda è il brevetto. Basti pensare che solo nel 2010 Apple ne ha registrati più di 500 e Samsung più di 4.000, stiamo parlando di numeri enormi, e quindi questi sono la vera ricchezza di un'azienda. I brevetto, oltre a essere poi un principio tecnologico e quindi difendere un'idea e ribadire che è l'unica idea in quel momento relativo a quella funzione, è anche qualcosa di più, e cioè è una sorta di essere la tecnologia, perché per esempio in questo caso il brevetto che è stato tutelato di Apple nei confronti di Samsung è un metodo di utilizzo e di proporre il prodotto, e quindi non più solo un requisito tecnologico. Senti, tutto ciò che sta accadendo ci dice anche qualcosa del settore. Forse, se guardiamo al mondo dell'elettronica di consumo, forse se guardiamo proprio a tutto il mondo in generale, quello dei tablet, degli smartphone, quelli dei tablet sono i due mercati che crescono di più e soprattutto dove c'è una concorrenza fortissima. Assolutamente sì, sono, anche perché sono come dire, i due settori dove, dicevo prima, la tecnologia conta meno, tutto sommato, dove conta di più l'approccio al cliente. C'è da dire una cosa in questo senso, che poi in realtà sono tutte in competizione queste aziende come Apple e Samsung di cui stiamo parlando, però in realtà gli interessi sono tutti fortemente mischiati, cioè per esempio la competizione fra Apple e Samsung avviene sul prodotto, quindi sullo scaffale, e quindi Apple tenta di ribadire che ha il prodotto migliore, però in realtà per costruire l'iPad ha bisogno di Samsung, e quindi con Samsung genera un giro d'affari annuo che sfiora i 6 miliardi di dollari di componenti come display, come memoria, eccetera. Quindi è vero che c'è una competizione, ma c'è anche una, diciamo, una collaborazione tra le aziende. Tra poco, come vi dicevo, parleremo delle novità che sono state presentate o che non sono state presentate all'IFA di Berlino. Vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci in diretta, 824 0024, oppure se volete, se preferite, inviarci un SMS 349 238 6666 o anche la nostra pagina Facebook. Potete inserire un messaggio, postare, scrivere un messaggio nella nostra pagina e magari contribuire anche al programma di oggi. Luca, tornando a Samsung, c'è chi dice, ci sono notizie anche oggi, che martedì o mercoledì, in occasione di un evento di Microsoft in cui dovrebbero essere svelate le prime novità di Windows 8, il nuovo sistema operativo che sarà disponibile il prossimo anno e che sarà anche un sistema operativo per tablet, Samsung potrebbe svelare cosa? Potrebbe svelare, come dire, il primo prototipo che fa funzionare Windows 8, quindi magari potrebbe succedere che durante la presentazione di questo nuovo sistema operativo il prodotto con cui viene mostrato dal vivo la piattaforma è un Samsung, quindi un tablet Samsung, e questo dimostra che comunque si va avanti, non ci si ferma all'ultima novità, ma si cerca sempre di andare un po' oltre per trovare nuove soluzioni. Questo è un sistema operativo per tablet o sia per tablet che per PC? Ma Windows 8 dovrebbe uniformare i due mondi, quindi essere un sistema operativo che funziona sia col classico, con la classica interfaccia mouse e tastiera, sia col display touchscreen, e gettare un ponte anche sugli smartphone, perché da quello che si vede nelle prime immagini avrà un'interfaccia che è molto simile a quella di Windows Phone 7, che oggi attualmente è la proposta di Microsoft per i telefonini. Sì, ed esiste un accordo tra Microsoft e Nokia per lo sviluppo di questo prodotto, e direi che a ottobre dovremmo cominciare a vedere qualche cosa. Se non ricordo male, verso la fine di ottobre dovremmo vedere il primo prodotto Nokia con questo sistema operativo. Ultima domanda, perché Samsung guarda con interesse a Windows 8? Samsung guarda con interesse a Windows 8 perché comunque Samsung è un'azienda che ci ha sempre dimostrato di cercare di proporre nuove soluzioni e non fermarsi sempre. Sì, ha sempre tenuto i piedi in più staffe, però mi sembra di capire che qua ci sia un problema di Samsung cerca di distinguersi in un mondo che ormai si è uniformato ad Android. Sì, in questo momento Android 3 non è un po' troppo simile in tutte le varie versioni che si vede sui tablet, anche se qualcuno cerca di cambiare un po' l'interfaccia, un po' l'aspetto, però fondamentalmente non sembra in questo momento evolvere alla velocità che vorrebbero i produttori di tablet, e quindi cercare di guardarsi in giro, cercare di capire se c'è qualcosa che può aumentare o migliorare la competitività di un brand su questo settore emergente aiuta sicuramente. Bene Luca, io ti ringrazio, ricordo che avete da poco rinnovato la rivista di cui tu sei responsabile, che ha cambiato anche brand, nome, portatili e tablet. A presto e buon lavoro. Altrettanto a voi, buona giornata, buon lavoro. Bene, sono le 15:43 minuti, adesso abbiamo altre notizie della settimana. Digital News. Sono 26,2 milioni gli italiani che hanno navigato su internet almeno una volta attraverso un PC nel mese di luglio 2011. L'incremento annuo è del 10%. Nel giorno medio sono stati online 12,2 milioni gli utenti attivi che hanno trascorso online in media 1 ora e 13 minuti al giorno, consultando 128 pagine per persona. I dati aggiornati sono stati pubblicati in settimana da AudiWeb. La prima città italiana ad avere la banda cosiddetta ultra larga, ultra wide broadband, a 300 megabit al secondo in tutte le case, potrebbe essere Monza, diciamo potrebbe, è la terza per numero di abitanti in Lombardia, quindi una grande città, sicuramente molto ricca. Questo che è stato annunciato in settimana è l'obiettivo dell'amministrazione comunale, che grazie a 800.000 euro della regione Lombardia in ottobre inizierà una sperimentazione ad installare una rete in fibra ottica nelle prime 800 case e conta di completarla entro 2 anni. Il costo stimato è di 30 milioni di euro, pari a 200 euro ad alloggio. Se fosse proprio così, io ad esempio sarei disponibile a pagare 200 euro, si parla di 400 euro per interventi un po' più complessi, insomma stiamo parlando di cifre abbordabili per avere una banda larga di questo tipo. Il progetto sarà realizzato da una società interamente pubblica e indipendente dagli operatori privati. A partire da questa settimana i siti web a contenuto pornografico avranno come dominio specifico la tripla X, quindi saranno .xxx. Se ne parla da tantissimo tempo. La regolamentazione è stata approvata mesi fa dall'ICANN, l'organismo che regolamenta i nomi dei domini in tutto il mondo, ma la proprietaria dal 2004 di questo dominio, il .xxx, è la società ICM Registry, che si aspetta ora di guadagnare un sacco di soldi. Ogni indirizzo costerà $60 all'anno. Nel 2011, secondo le stime di questa società, si dovrebbero iscrivere 500.000 siti internet. L'ultima notizia riguarda Google, che ha annunciato di aver acquistato le guide gastronomiche americane Zagat. Sono molto famose e se qualcuno è stato negli Stati Uniti avrà sicuramente utilizzato la Zagat. In questo modo Google rafforza la propria offerta di informazioni su base locale che, grazie ai servizi cosiddetti di geolocalizzazione su smartphone via GPS, saranno sicuramente uno degli asset in più rapido sviluppo nei prossimi anni. 2024. 15:46 minuti, questo è 2024, io sono Enrico Paglierini, il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Se ci volete chiamare in diretta oggi, il nostro numero verde è 800 24 00 24. Vi ricordo che al termine del programma sarà disponibile la versione podcast sul nostro sito internet www.radio24.it. Gianfranco Giardina, direttore responsabile del magazine digitale online dday.it. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Abbiamo parlato poco fa di questa battaglia legale che contrappone in Germania la Apple e Samsung, ma abbiamo detto che ci sono 19 cause in giro per il mondo che contrappongono queste due aziende. Voi siete stati con più che una delegazione, un piccolo esercito, perché eravate in 9 negli stand dell'IFA di Berlino e, se non ricordo male, ho letto online che proprio nel giorno in cui è arrivata una di queste sentenze del tribunale che ha detto il tablet 7.7 pollici va tolto dal mercato, eravate lì nello stand e non avete fatto in tempo a fare la foto. Sì, avevamo fatto per fortuna già delle riprese il giorno prima, dove quando il tablet era ancora esposto. Il caso della Germania non è evidentemente casuale. La Germania è un grande mercato, uno dei più importanti per tutta Europa di sicuro, ma queste sentenze arrivavano, erano precisamente in sincrono con l'IFA di Berlino, cioè erano mirate fondamentalmente questi procedimenti giudiziari per bloccare soprattutto l'attività di promozione che ne sarebbe stata fatta all'IFA di Berlino, tant'è vero c'è stato poi un procedimento d'urgenza appunto nei giorni dell'IFA, per cui la manifestazione è iniziata con il tablet esposto, ma il secondo giorno il tablet è stato ritirato e dopo sono stati coperti anche i cartelli, dopo che noi abbiamo cominciato a fotografarli e addirittura siamo stati fermati da dei gorilla che volevano che consegnassimo loro le foto. Ovviamente non l'abbiamo fatto, abbiamo pubblicato le foto. Senti, noi parliamo di questa fiera perché tra gli addetti ai lavori è importante, spieghiamo perché è importante o perché lo è stato nel passato, perché questa edizione è stata forse un po' diversa dal solito. Ma l'IFA è importante perché storicamente ha tenuto a battesimo di fatto lo sviluppo, il grande sviluppo della radio, tant'è vero che IFA è la traduzione dal tedesco della sigla di Fiera Internazionale della Radio, però in realtà è la fiera che ha tenuto a battesimo la TV, cioè il sistema televisivo, i primi televisori sono stati mostrati in Europa proprio a Berlino. 80 anni fa, quindi torniamo indietro di molto tempo. La cosa un po' particolare è che questa fiera, che era biennale, quindi c'era soltanto negli anni dispari, e questo perché poi negli anni pari ci si prepara sempre una grande stagione televisiva o per i mondiali di calcio o per le Olimpiadi, questa fiera è diventata annuale negli ultimi anni, ma quest'anno direi per la prima volta le novità su fronte TV erano scarsissime, se non quasi inesistenti, quindi è mancato il vero protagonista della fiera, almeno il protagonista storico, non è detto che poi negli anni prossimi lo debba essere ancora. Sentiamo Giorgio che ci telefona dalla provincia di Napoli. Buongiorno Giorgio. Salve, saluto a tutti. No, desideravo parlare di questa diatriba fra il tablet della Samsung e l'iPad 2, no? Praticamente. Sì. Cioè, in effetti io vorrei capire la Apple dove si è appigliata, in effetti, perché sono due prodotti diversi, in quanto cioè lei, Giorgio, form factor 4 terzi l'iPad 2, l'altro è un form factor 16 noni se non sbaglio, due sistemi operativi diversi, uno Android e l'altro iOS, cioè voglio capire se va avanti questo principio qua, non si può fare più niente, perché form factor diversi. Chiaro, ha già detto. Guardi, c'è una sentenza di un tribunale tedesco, oltre il fatto che è scritta in tedesco, quindi io non capisco molto bene il tedesco, non mi metterei a, diciamo, commentare una sentenza. Esiste un tribunale che ha deciso, non andiamo oltre. Dopodiché io sono d'accordo con lei che per molti versi i prodotti sembrano differenti, ma questo è quanto ha stabilito Düsseldorf, il tribunale di Düsseldorf. Gianfranco, vuoi aggiungere qualche cosa? Ma non so quanto possa... Ma semplicemente che il comune sentire è proprio quello del nostro ascoltatore, cioè proprio sul nostro sito qualcuno commentava la notizia di un altro tablet, che vergogna, ritirato dal mercato, non vedete che è rettangolare. Cioè questo è il commento, sì. Giusto per dire che evidente, siamo in una situazione in cui non si capisce bene, ma questo è un problema che non nasce adesso e non finirà e non sarà risolto adesso, dove inizia la brevettabilità e dove finisce soprattutto, e dove inizia la tutela lecita evidentemente della proprietà intellettuale, ma che in alcuni casi sembra creare un po' qualche mostro se utilizzata eccessivamente a livello giuridico. Abbiamo anche detto poco fa che il tribunale di Düsseldorf è un tribunale, diciamo, che tendenzialmente sta più spesso rispetto ad altri tribunali nella stessa Germania dalla parte del detentore del brevetto, e abbiamo anche detto che questa è una vittoria simbolica più che altro. Gianfranco, dicevo poco fa che questa edizione dell'IFA di Berlino è stata un'edizione dove sì, ci sono state delle novità, ma forse non quelle che molti si aspettavano. Sì, diciamo che quando si va in queste manifestazioni fieristiche internazionali, che vanno anche dette, si sono molto ridotte per numero, cioè oramai c'è l'IFA di Berlino e il Consumer Electronics Show di Las Vegas, ci si aspetta sempre di vedere dei prototipi, quindi di vedere come la tecnologia diventerà nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni, e questo è sempre capitato. Quest'anno i prototipi, quasi per un tacito accordo tra tutti i produttori, sono scomparsi. Faccio l'esempio più lampante: da anni oramai all'IFA di Berlino, come al Consumer Electronics Show di Las Vegas, vedevamo dei prototipi di TV in tecnologia OLED, che non c'entra niente con la tecnologia LED, è una tecnologia completamente diversa, assolutamente rivoluzionaria per prestazioni, purtroppo non è ancora arrivata a dei costi che rendano questi prodotti commercializzabili su larga scala. Questi prototipi sono completamente scomparsi, quest'anno nessuno esponeva più un TV OLED. La cosa colpisce, visto che, per esempio, visto che ne abbiamo parlato, il tablet Galaxy 7.7 monta un display OLED, quindi i display OLED esistono sempre più, sono sempre più vicini a una commercializzazione anche su dimensioni più importanti, ma sono scomparsi. Questo perché noi, questa è la nostra interpretazione, va da sé, il mercato evidentemente soffre della crisi internazionale, è un momento in cui fare i numeri è diventato un po' difficile per tutti e quindi le aziende hanno deciso di concentrarsi sulla gamma, cioè di non esporre nuovi prototipi e di far vedere soltanto le innovazioni a brevissimo, cioè o i prodotti che sono disponibili, saranno disponibili tra 2-3 settimane, non di più, e quindi che possano fare la stagione del Natale, oppure i prodotti che sono già in gamma. Questo ha un po' depotenziato l'effetto novità e le cose che c'erano da raccontare, anche se noi siamo riusciti a scrivere più di 100 articoli sulle novità dell'IFA, ben inteso. Quindi diciamo che val più la pena di andare una volta all'anno a Las Vegas a cavallo dell'anno, cioè all'inizio dell'anno prossimo, comunque sempre in gennaio, al Consumer Electronics Show, piuttosto che a Berlino, cioè facciamo prima di andare ad un centro commerciale, Gianfranco. Questo è quello che molti operatori hanno detto, anche perché i costi collegati a un'esposizione di questo tipo sono enormi, e quindi si era incominciato a parlare tra gli operatori di riportare l'IFA a cadenza biennale, quindi soltanto agli anni dispari, oppure addirittura qualcuno mi ha anche suggerito che un mondo senza IFA potrebbe comunque vivere ugualmente. È chiaro, sono momenti in cui si devono decidere dei tagli anche dolorosi, però la manifestazione c'è stata, e c'è stata con tutti gli spazi al completo. Quindi, e ci sono state anche le novità. Infatti adesso ci fermiamo perché tra poco ci sono le notizie di GR24 e tra poco riprendiamo parlando di quelle che comunque sono state le novità che comunque sono state presentate a Berlino. Vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci per anche una considerazione sul programma, visto che abbiamo ripreso la nostra versione autunno-inverno-primavera, 824-0024, tra poco. 2024. Riprende questa puntata di 2024, la prima della nuova stagione. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete scriverci anche durante la settimana per qualsiasi motivo: 2024@radio24.it. Vi ricordo che questo programma sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24 dopo il termine della trasmissione, quindi poco dopo le 17. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica, e con noi Gianfranco Giardina, che è responsabile del magazine digitale dday.it, e assieme a 8 suoi collaboratori, insomma i giornalisti di D-Day, è stato fino a qualche giorno fa a Berlino per l'IFA, questa importante fiera. Meno novità rispetto al previsto, abbiamo detto, però tu Gianfranco ci hai anticipato appunto che qualche novità c'è stata, ne avete scritto su D-Day. Per quanto riguarda, tu dicevi che questa fiera è nata presentando, comunque è importante perché è stata presentata la prima TV in assoluto tanti anni fa. Su questo fronte qualche novità? Sì, su questo fronte qualche novità, per esempio legata alle superfici tattili, cioè dopo aver visto gli smartphone col touchscreen, adesso anche i TV incominciano ad avere delle soluzioni touchscreen. Per esempio è stato presentato da LG una serie di plasma, una linea di plasma che sarà già in commercio prestissimo, che non direttamente col dito ma grazie a due penne che sono date in dotazione è sensibile al tocco e quindi dispone di una serie di applicazioni. Bisogna attaccare un computer per far girare queste applicazioni, quindi si può pilotare interamente il computer sullo schermo o con questa applicazione trasformare il TV in lavagna digitale interattiva, per esempio per i bambini, c'è una serie di giochi, ma anche per il mondo dell'educational e anche per una serie di altre applicazioni. Però gira qualsiasi programma che c'è sul computer, può essere controllato in questo modo, quindi per esempio ho giocato per qualche minuto a Angry Birds, non più sul piccolo 3 pollici di uno smartphone, ma su un 60 pollici, quindi sicuramente è una cosa divertente con una precisione tutta diversa. E quindi anche questa piccola cosa, che è una piccola innovazione, però è una cosa che si capisce immediatamente, si chiama Pentouch e sta per arrivare. Non solo questo, ma anche TV un pochino sempre più intelligenti, quindi le piattaforme Smart TV dilagano, si diffondono, ma per esempio Toshiba ha fatto qualcosa in più, quindi ha inserito una piccola videocamera all'interno dei propri TV Cevo, e questa videocamera è in grado di riconoscere il volto dello spettatore fino a 4 profili, e non appena vede lo spettatore carica tutte le sue preferenze, quindi la lista canali, le sue impostazioni audio, le sue impostazioni video, le cartelle predefinite nella quale andrà a cercare i file sull'hard disk interno, eccetera eccetera. Questo in maniera del tutto automatica, quando riconosce un personaggio. Non ho ancora capito che cosa succede se ci sono due o tre personaggi riconoscibili davanti allo schermo, chi ha la priorità. Comunque certo, questo lo vedremo provando nelle prove che riusciremo a fare subito, diciamo tra qualche settimana. Anche questi sono prodotti, come dicevo prima, non futuribili, ma tutti prodotti che stanno per arrivare. Dunque, detto delle TV, mi sembra di capire che ci sono state parecchie novità su un settore di cui francamente ci occupiamo poco e di cui effettivamente si parla molto poco, il cosiddetto bianco. Allora, innanzitutto diciamo che cos'è il bianco per gli addetti ai lavori. Il bianco è tutto ciò che non è bruno, quindi l'ho definito per esclusione. Si capisce subito. E sono i piccoli e grandi elettrodomestici, mentre col termine bruno gli addetti ai lavori normalmente definiscono tutti gli altri apparecchi, TV, audio, video, informatica, perché normalmente hanno dei chassis scuri, questo storicamente, mentre lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi hanno dei chassis chiari, ed è qui la differenza. Comunque il settore del bianco è qualche anno che è presente con tutti gli elettrodomestici appunto all'IFA, sempre messo in un angolino, un pochino relegato. Quest'anno c'è stata la grande avanzata, cioè i padiglioni del bianco sono diventati giganteschi e soprattutto le novità proposte sono diventate molto, molto interessanti, alcune volte di una semplicità incredibile. Questo forse ce li fa piacere anche molto, non bisogna essere dei super tecnici per capire per esempio come possa essere comodo un aspirapolvere, un normalissimo aspirapolvere che ha le ruote motorizzate e grazie a una serie di sensori segue il proprio padrone man mano che si sposta per la casa, quindi non appena il padrone si allontana di un metro e mezzo, ecco che l'aspirapolvere fa un passetto avanti, non appena l'utente cambia direzione o torna indietro, l'aspirapolvere si scansa per evitare che possa inciampare. Ecco, questo per esempio è una cosa di una semplicità incredibile, sensori che già esistono, ruote motorizzate che non ci inventiamo certo ora, ma applicate a una tecnologia che usiamo tutti i giorni e che invece sappiamo essere un po' scomoda quando ci tocca tirare per il tubo questi aspirapolveri, per esempio. Sì. Ma ce ne sono molti altri. Devo dire che questo è un settore in cui l'evoluzione tecnologica forse non si è espressa al massimo, perché comunque se uno in casa deve pulire deve ancora faticare e le macchine lo aiutano un po'. Certo, la lavastoviglie fa il suo dovere, la lavatrice sì, però se uno deve pulire per terra, lavare i vetri eccetera eccetera, fatica, ne deve ancora fare molta, e io spero che nei prossimi anni si vedano macchine robotizzate che possano fare questo. Non so se a Berlino avete visto qualcosa di innovativo veramente. Sì, beh, a parte tutte le gli aggiornamenti sui robot pulisci pavimenti, che oramai sono una realtà consolidata e incominciano ad avere prestazioni molto interessanti, una cosa che abbiamo visto, che non avevamo mai visto, è il robot pulisci vetri. Quindi questo mi interessa. Sì, sono due parti, due conchiglie a pianta rettangolare, perché ovviamente devono seguire poi il disegno dei vetri che normalmente è rettangolare, che vengono applicate una dalla parte del vetro e una dalla parte opposta, sono tenute insieme magneticamente e se ne vanno a spasso sul vetro in maniera del tutto automatica finché non l'hanno pulito completamente. Una volta finito il vetro si sganciano, si riattaccano a un nuovo vetro e vanno avanti. Ancora un po' macchinoso, diciamo così, e non so che cosa succede se per le finestre esposte, nel caso in cui il legame magnetico tra le due parti dovesse interrompersi per qualsiasi motivo e una parte quindi cadere magari per strada, potrebbe essere pericoloso, però insomma è un inizio, dobbiamo vedere poi come può evolvere, però incomincia ad esserci qualcosa anche su questo fronte. Molto belle anche le novità sul fronte della conservazione. Cioè frigoriferi? Di frigoriferi, sì. Conservazione dei frigoriferi e poi vedremo anche degli indumenti. Allora, per i frigoriferi una cosa che mi ha colpito è un'innovazione fatta vedere da Siemens, che è un cassetto a tenuta stagna sottovuoto all'interno del frigorifero. È una, anche questa, non sono tecnologie strampalate o che non abbiamo mai visto, è la tecnologia del sottovuoto applicata in un apparecchio che è già elettrificato, quindi c'è una pompa che non appena chiudo il cassetto manda in contropressione e svuota il cassetto completamente d'aria. Quello che è contenuto in quel cassetto durerà 5-6 volte di più, perché è in tenuta. Ogni volta che lo apro sento proprio il rumore della pressione dell'aria che entra e posso accedere al cassetto. Conservazione anche però degli indumenti, per esempio con l'armadio attivo che abbiamo visto, molto bello, in cui è un apparecchio che va messo in teoria in camera da letto insieme al guardaroba. Ecco, ci sono delle grucce all'interno sulle quali inserire le giacche, i cappotti, i vestiti un pochino più delicati o complicati, quelli che hanno bisogno di avere una piega, una posizione corretta, vengono inseriti e a seconda del programma che si decide dall'esterno vengono agitati e basta, agitati ovviamente in maniera morbida, ma agitati colpiti da un getto di vapore che li lava e li rimette in forma, distende le fibre, leva gli odori e sanifica, o addirittura sanificato in maniera vera e propria, per esempio per come si fa per gli indumenti per i bambini. La stessa macchina può anche servire per asciugare i capi che però hanno bisogno di rimanere in forma. Insomma, tintoria addio, con questo apparecchio ce la si cava sì. A casa e quando si vuole. Poi bisognerà vedere queste cose quanto costano, perché... Sì, qualche indicazione si ha già, ecco, questo mobile attivo, la prima edizione, sappiamo che quando escono queste tecnologie sono sempre più costose, ma si attesterà intorno ai 2.000 euro, quindi non proprio un regalo, ma la macchina è sì. Sicuramente molto innovativa e molto, molto complessa da questo punto di vista. Bene, ci fermiamo per un minuto, poi ti lascio ancora qualche minuto per forse cambiare argomento e per le ultime novità. 2024. Chiudiamo questa parte dedicata alle novità che sono state presentate all'IFA di Berlino. Tra poco ci occuperemo di biglietti online per andare a vedere una partita di calcio. Esiste l'offerta in Italia, ma soprattutto che tipo di offerta è? Lo scopriremo tra poco. Nell'ultima parte di 2024 parleremo anche di spazio, perché sono successe parecchie cose durante l'estate, allora faremo il punto della situazione. Gianfranco, a proposito del settore delle immagini digitali, che cosa avete visto di interessante? C'è una cosa che mi piace moltissimo, ma la lascio dire a te. Allora, nuove fotocamere molto interessanti, oramai raggiunti comodamente 24 megapixel sia su macchine reflex che su macchine compatte mirrorless, quindi sicuramente risoluzioni incredibili, velocità e raffiche di scatto. Sony da questo punto di vista con l'Alpha 77 ha battuto tutti i record con una fotocamera che fotografa appunto 24 megapixel fino a una raffica di 12 fotogrammi al secondo, quindi 12 fotografie al secondo, perfetta per la fotografia sportiva. E sempre Sony ha introdotto un prodotto abbastanza innovativo, sicuramente innovativo nel concept, vedremo se prenderà piede, il binocolo digitale. Ecco, questo mi piace. Effettivamente, di qualche cosa che assomiglia nella forma incredibilmente a un binocolo, lo è anche nell'utilizzo, e ingrandimenti fino a 20x, quindi come un buon binocolo, però è tutto digitale, quindi all'interno c'è un sistema di ripresa ovviamente a due ottiche, due sensori e due zoom, quindi praticamente in stereo, riprende in stereo, di conseguenza permette una ripresa 3D La visione all'interno è fatta con due display oculari e quindi si vede in 3D, quindi la sensazione tridimensionale è assolutamente conservata. La cosa molto interessante è che posso anche scattare le foto e riprendere il video mentre osservo. Quindi tutti, per esempio, gli appassionati naturalisti, gli appassionati di birdwatching, piuttosto che safari, piuttosto che attività di questo tipo, potranno divertirsi, e non solo divertirsi al momento, ma immortalare tutte le loro ricerche fatte con il binocolo. Sappiamo già quanto costa? Costa intorno ai 1500 euro. Vabbè, pensavo peggio. Penso che incomincia a essere importante. Sempre sulla stessa scia, anche se non è per la ripresa ma per la visione, ha fatto molto scalpore il visore 3D, sempre di Sony, che integra due display OLED all'interno, quindi bellissima qualità, molto risoluti, e che si mette, è un pochino triste, perché è una visione singola, solo per una persona, sono quegli, una specie di occhiale futuristico in cui io metto dentro e ho l'impressione, la sensazione piena di avere davanti uno schermo gigantesco, e quindi totalizzante, bellissimo per i videogame, forse un po' meno per vedersi un film, sicuramente non per vedersi un film in compagnia. Mi sposterei forse... Poi chiudiamo, sì. Il mobile, così chiudiamo un po' il cerchio che abbiamo aperto, sicuramente da citare il Samsung Galaxy Note. Questo non è stato ritirato, non è stato nascosto, non fa parte completamente diverso da qualsiasi altra cosa si è vista prima, perché è un tablet, smart tablet, chiamatelo come volete, è una via di mezzo tra un tablet e uno smartphone. Telefona, e quindi assolutamente simile a uno smartphone, però è un pochino più grande, ha un display da 5,2 pollici e si comanda anche con il pennino, quindi vediamo ricomparire una cosa che era un po' scomparsa da un po' di tempo, perché essendo un display non gigantesco, per disegnare, per prendere appunti, è meglio farlo col pennino piuttosto che col dito, molto interessante. Cito infine il tablet S di Sony, che mi colpisce proprio perché riunisce in un nuovo concept il tablet, una vecchia tecnologia ma che è ancora molto utile. Oltre ad avere tutte le funzioni di un tablet Android, Tegra 2, tutte le funzioni che già conosciamo, integra al proprio interno un emettitore e ricevitore a infrarossi. Quindi una tecnologia che in teoria è scomparsa un po' dai computer, un po' dai tablet e dai telefoni. Perché? Perché ovviamente possiede al proprio interno anche un'applicazione per fare da telecomando universale. Quindi tenuto sulle gambe davanti alla TV, come spesso accade con i tablet, serve anche per comandare l'intero impianto audio-video, con accensioni, spegnimenti, macro, eccetera, eccetera. Quindi una buona intuizione di Sony da questo punto di vista. Bene, grazie Gianfranco Giardina per essere stato con noi. Buon lavoro, ti aspettiamo in studio nelle prossime puntate. A presto. Grazie mille, a presto. Questo è 2024, vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci oggi in diretta, 800 24 00 24, oppure se preferite inviarci una email 2024@radio24.it, la nostra pagina Facebook, oppure gli SMS al 349 238 6666. In questo fine settimana che segna l'inizio della Serie A, ci siamo domandati se e come è possibile acquistare un biglietto digitale per una partita della Serie A. Prendiamo come punto di riferimento alcune delle migliori squadre europee, tipo ad esempio Barcellona, Real Madrid. Fate la prova, la procedura di acquisto è semplice, veloce, con una grafica gradevole, senza necessità di registrazione, perché se uno non è un tifoso e vuole una volta andare a vedere una partita, a parte tutti i problemi della tessera del tifoso, ma ci sono alcune partite che sono libere da questi vincoli, uno dovrebbe poter far tutto ciò senza essere registrato, cosa che noi chiediamo sempre anche a alcuni siti internet di acquisto online, non dovrebbero proporre la registrazione. Insomma, in queste squadre tra le più famose e blasonate d'Europa, la cosiddetta user experience è ottima, fate la prova. Cosa succede in Italia, dove almeno i team principali dovrebbero essere all'altezza delle migliori squadre europee? Inquadriamo il settore nel più ampio segmento del cosiddetto ticketing online, che sta crescendo molto velocemente anche in Italia. Riccardo Mangiaracina, responsabile dell'osservatorio e-commerce della School of Management del Politecnico di Milano. Sì, è così, l'offerta di ticketing online è un'offerta importante nel nostro paese, e nel corso degli ultimi anni è certamente cresciuta, coprendo diversi ambiti che sono quelli che giustamente citava lei, quindi dai concerti alla musica, agli spettacoli teatrali, agli eventi sportivi e tra questi anche il calcio. Nel suo complesso il ticketing online vale svariate decine di milioni di euro nel nostro paese, e invece il calcio in senso stretto, quindi la vendita di biglietti per le partite di Serie A e B in Italia, qualche difficoltà in più l'ha incontrata, ecco, mi sento di dire questo. Voi avete fatto anche su nostra richiesta un'analisi della situazione. Che cosa avete scoperto? Qual è il vostro parere sull'offerta delle squadre, almeno delle principali squadre di calcio in Italia, per quanto riguarda il ticketing online? Allora, l'idea che siamo fatti nel condurre questa analisi è che, insomma, le società di calcio non ci pare abbiano spinto ed investito molto fino ad oggi sulla vendita di biglietti online. Questo che conseguenze ha avuto? Evidentemente ha avuto come prima conseguenza quella dell'ottenere un'offerta che ad oggi non è completa, non tutti gli eventi sono sempre disponibili online, non tutte le squadre vendono online i propri biglietti. Come seconda conseguenza, evidentemente non investendo molto le società in senso proprio, hanno dato il servizio a piattaforme terze, delegato il servizio a piattaforme terze per la vendita dei loro biglietti, e questo evidentemente porta poi a delle conseguenze sulla qualità dell'offerta, che benché tutto sommato rimanga di un certo livello non consente certo dei livelli di personalizzazione molto spinti sulle esigenze della singola squadra, e non consente molto spesso lo sviluppo di funzionalità specifiche per la scelta dei biglietti online differenti, quindi squadra per squadra. Diciamo che soprattutto la cosiddetta user experience, cioè la facilità con cui si può acquistare un biglietto, beh, da questo punto di vista siamo ancora all'asilo o alle scuole elementari? Sì, è così, anche se come sempre non si può fare di tutta l'erba un fascio. Qualche società, che qualche progetto interessante lo ha sviluppato, inizia ad esserci, e certamente però se ci confrontiamo con i team più blasonati europei, vedi Real Madrid, Barcellona, Manchester, insomma chi più ne ha più ne metta, effettivamente sembrerebbe oggi esserci un gap che andrà colmato. Dall'analisi e anche dalle chiacchierate che voi fate puntualmente con chi si occupa di bigliettazione elettronica, in questo caso comunque di commercio elettronico più in generale, vi siete sicuramente fatti un'idea del perché siamo a questo punto. Uno potrebbe dire, beh, perché siamo in Italia, perché le squadre di calcio dal punto di vista tecnologico sono piuttosto arretrate, possiamo guardare alcuni siti internet che sono francamente ridicoli per un'offerta, diciamo, adeguata nel mondo del web 2.0. Però nel caso specifico perché accade tutto ciò? Beh, allora, rispondere a questa domanda non è certo semplice, no? Probabilmente sono veri tutti quei fattori che ha appena citato lei. A questi, bah, insomma, mi sento di aggiungere, di mettere sul piatto anche la regolamentazione, tutto sommato abbastanza ferrea, che il settore calcio ha in Italia, e che certamente, mettiamola così, non aiuta lo sviluppo del business, però evidentemente qualcosa si può fare. Ringraziamo l'Osservatorio e-commerce della School of Management del Politecnico di Milano, che ha fatto un'analisi generale, non ha fatto una classifica. Quella l'abbiamo fatta noi, secondo la nostra analisi, che l'unico sito internet che rispetta gli elementi che ho citato poco fa, velocità, chiarezza, soprattutto assenza di registrazione, è quello dell'Inter. Tutti gli altri sono bocciati. Pensate che addirittura la Juventus, che ha appena inaugurato il nuovo stadio, rimanda a l'Isticket, che è una piattaforma di lottomatica che potremmo dire ben poco sexy. Il Milan, molti che hanno utilizzato quel sito ne parlano bene, ma purtroppo c'è necessità di registrazione, o comunque è necessario avere una tessera per accedere alla biglietteria online. Dicevamo dell'Inter, che rimanda comunque ad un fornitore esterno, che è Banca Popolare di Milano, che ha una piattaforma sulla quale si vede la mappa dello stadio, la disponibilità dei posti, i prezzi e anche le fotografie del posto dal quale poi uno vedrà la partita allo stadio. Pier Francesco Barletta è responsabile dell'area stadio e sicurezza dell'Inter. Noi abbiamo sempre una richiesta maggiore e crescente negli ultimi anni, è stata sempre più forte la richiesta da parte dei tifosi di acquisto online dei biglietti delle singole partite e anche delle vendite degli abbonamenti. Riteniamo che naturalmente ci siano troppi vincoli, che sono vincoli dovuti alle normative per la sicurezza negli stadi, che magari creano ulteriori ostacoli ai tifosi. Però noi abbiamo avuto negli ultimi anni una risposta forte. Basti pensare che diciamo il dato medio è che riusciamo a vendere un 10-15% dei biglietti per ogni singola partita attraverso la modalità online. Questo significa che comunque si può ancora migliorare. In alcune partite addirittura arriviamo a vendere 10-12 mila biglietti online. Esiste in generale in Italia un problema delle squadre di calcio in rapporto al web? Se uno guarda alle offerte, ai siti, soprattutto nella parte di vendita dei biglietti online delle più importanti squadre europee, vede, si accorge che l'acquisto è molto semplice, molto bello, molto, molto facile. Voi effettivamente avete una proposta che si avvicina, però anche voi forse un po' di miglioramenti li dovreste fare. Sì, guardi, sono d'accordo, sicuramente la parte che va migliorata è la parte di grafica accessibile ai tifosi, e su questo stiamo già lavorando, tant'è vero che da Natale avremo sicuramente un'interfaccia da grafico diverso. Poi, come è stato detto anche poco fa, comunque rispetto a altre squadre europee in Italia ci sono dei vincoli maggiori. Basti pensare che si deve inserire il nome, il cognome, la data di nascita e da quest'anno anche il luogo di nascita del singolo acquirente. Quindi naturalmente c'è una complicazione in più, che non è diversa chiaramente dall'acquisto del biglietto in modalità tradizionale, ma comunque per chi è abituato a fare acquisti su internet è una complicazione maggiore rispetto a un, diciamo, un tifoso spagnolo, tedesco, francese. I vantaggi per una parte della clientela nell'acquisto online sono indubbi. Quali sono invece, per quanto vi riguarda, i maggiori vantaggi nello sviluppo di una applicazione web, quindi di un servizio di vendita online? Sono tantissimi, anche sul piano della sicurezza, perché significa non affollare la biglietteria il giorno della partita, significa sapere diciamo con anticipo il numero dei tifosi che saranno presenti, significa avere la possibilità di non aprire addirittura le biglietterie come avviene in altri stadi europei. Questo secondo me risponderebbe anche a delle esigenze di ordine pubblico, di sicurezza, che sono esigenze che riguardano tutti gli stadi italiani. Avete sentito, effettivamente ci sono anche dei vincoli di alcuni regolamenti. La legge impone tutta una serie di regolamentazioni, non ultima appunto la tessera del tifoso. Questo è un tipico caso in cui la legge frena lo sviluppo economico di un settore, quello delle biglietterie online. E lasciatemi dire, se consideriamo che alcune squadre possono essere anche un'attrattiva turistica, sicuramente creano vincoli anche in questo campo. Ci fermiamo per qualche minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo il nostro approfondimento dedicato alla vendita online di biglietti per le partite di calcio. Abbiamo analizzato le principali squadre di calcio italiane. Andrea Casadei è responsabile dell'area ticketing del gruppo Best Union Company, che gestisce buona parte dell'offerta italiana con alcune piattaforme come Viva Ticket, attiva soprattutto nel settore della cultura e dell'intrattenimento, e Best Ticket e anche Ticket Click, che vendono anche biglietti per il mondo sportivo. Ma è un settore che sta crescendo molto, con lo stesso trend con cui sta crescendo l'e-commerce in generale in Italia, per cui una crescita costante, recuperando lentamente il gap di svantaggio rispetto a altri paesi industrializzati che hanno comunque una presenza online, è in linea con tutto il recupero che stiamo facendo sulla presenza web nel nostro paese. Potremmo dire che questo particolare commercio elettronico forse più facile di altri, perché smaterializzare un biglietto è molto semplice. Sì, smaterializzare è molto più facile, nel senso che in realtà vendi un servizio che è il servizio che ti garantisce l'accesso a uno spazio e non hai problemi ovviamente di logistica e il fulfillment e tutta la parte, come dire, di gestione fisica del prodotto che una persona si deve comprare online. Poi è vero che in Italia, specialmente nella parte legata allo spettacolo e comunque anche allo sport, c'è una serie di problematiche burocratiche che rendono comunque la gestione un po' più complicata di come è all'estero. Senti, se io dico che in generale, poi parliamo anche del mondo del calcio sul quale ci vogliamo dedicare oggi, se dico che in generale la cosiddetta user experience, quindi la facilità con cui si compra un biglietto online oggi in Italia è ancora lontana dai livelli ottimi che vediamo in altri paesi del mondo, tu come rispondi? Ma credo che sia molto vero per alcuni settori, meno per altri, dove c'è una retratezza più generale a livello proprio globale, per cui, che ne so, nello sport e anche nel live entertainment sicuramente abbiamo delle strutture all'estero molto più attente a creare delle interfacce che siano user friendly o sexy, come dicono gli americani, mentre invece in altri settori, tipo quello dell'arte in generale, devo dire che tutto sommato ci sono degli esempi nel nostro paese assolutamente in linea con grandi istituzioni museali in giro per il mondo. Se ti faccio una domanda sull'offerta del mondo del calcio, qual è la vostra visione del mercato? Ma il mondo del calcio è sicuramente un settore in forte crescita, lo smaterializzato può aiutare molto. Certo, l'aspetto legato alla normativa sulla tessera del tifoso comporta comunque alcune regole che rendono il mercato del calcio più complesso di altri mercati rispetto all'acquisizione del biglietto, nel senso che comunque il cliente va tracciato in un certo modo, deve essere identificato, deve essere agganciato alla propria carta del tifoso, c'è tutta l'operazione fiscale legata a quello che in gergo si dice SIA, e anche se la SIA è solo un ente di controllo, non è il meccanismo di gestione, però è chiaro che è un mercato in crescita, anche se sono delle complessità burocratiche in più. Potrebbe sembrare dalla offerta piuttosto scarsa, non solo in quantità ma anche in qualità, che i clienti sono poco interessati ad acquistare biglietti online. Voi che cosa invece pensate, come vedete il mercato? Cioè, se ci fosse un'offerta migliore, ci sarebbero anche i clienti? Ma sicuramente, se l'obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti, ma un po' in generale l'intero mercato, a migliorare l'offerta, tenendo presente dall'altra parte che la smaterializzazione del biglietto e la possibilità appunto di gestire in remoto le carte, le teste del tifoso, è una cosa di recentissima applicazione, e quindi in realtà è un mercato nuovo, cioè un mercato arretrato ma che si può accelerare e innovare rispetto alle novità normative che fino alla scorsa stagione non erano ancora applicabili. Giusto per far capire agli ascoltatori, stiamo parlando di una cosa che è in tutto e per tutto analoga a, che ne so, la carta d'imbarco per un aereo, così come oggi vengono emesse carte d'imbarco attraverso internet che uno si stampa a casa o addirittura le mostra al gate sul telefonino, sullo smartphone. La stessa cosa vale per la bigliettazione elettronica. Diciamo che l'obiettivo a cui si vuole arrivare in breve tempo è esattamente questo, e quindi in realtà recuperare il gap tecnologico che c'è in altri segmenti legati al ticketing. In realtà ancora oggi la carta d'imbarco con il cellulare, con la possibilità di caricarlo smaterializzato eccetera, sì, non è una cosa che abbia una diffusione elevatissima. Cioè, capita spesso di prendersi ancora il biglietto al check-in e di doverlo cambiare su carta, per cui è un mercato che stiamo inseguendo, un mercato che a sua volta sta crescendo e sta innovando. Questa dunque è la situazione per chi vuole comprare un biglietto online per andare a vedere una partita in uno stadio italiano. Insomma, non una buona situazione, non ci facciamo una gran figura, e questo approfondimento vuole essere non solo una critica, una tirata d'orecchie, ma un invito a far meglio, perché, come dicevo, le nostre squadre in alcuni momenti rappresentano anche una immagine, una faccia del nostro paese, anche in funzione turistica, perché basta guardare tra l'altro i siti delle squadre più famose che sono sviluppate in lingue orientali, medio orientali, internazionali, perché hanno una grande attrattiva in tutto il mondo, e questa parte digitale deve essere sviluppata in modo analogo. Cambiamo argomento, sono le 16:39 minuti, saluto Luigi Bignami, bentornato Luigi. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Luigi Bignami è un giornalista tra i più esperti di scienza in Italia, sicuramente di spazio. Allora, visto che sono capitate molte cose durante l'estate, vogliamo all'inizio della nuova stagione di 2024 fare un po' il punto della situazione. Partiamo dalla fine dell'era dello Space Shuttle, se ne è parlato molto negli Stati Uniti, nel mese di luglio quasi tutte le radio, le talk radio americane parlavano della fine di questa era, perché il 21 luglio a Cape Canaveral è atterrato per l'ultima volta nella storia uno Space Shuttle. A questo punto, con la fine del programma Shuttle per gli americani, che cosa accade, Luigi? Accade che per mandare degli uomini nello spazio devono assolutamente affidarsi a delle potenze straniere, prima di tutti la Russia. La Russia oggi è l'unico paese, al di là della Cina, però Cina che esce da quello che sono i progetti americani, russi ed europei, è l'unico paese che è in grado di avere un razzo ormai collaudato per portare degli uomini nello spazio. E quindi ogni volta che un uomo, due astronauti, o che devono raggiungere oggi la Stazione Spaziale Internazionale, devono chiedere un posto ai russi al costo molto elevato, ad un costo di circa 50 milioni di dollari, che è aumentato nel corso del tempo, perché si era partiti con 35 milioni di dollari, proprio perché sono diventati gli unici a poter traghettare degli uomini verso lo spazio, al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale. Sicuramente il costo è elevato, è aumentato come tu dicevi, visto che sono rimasti gli unici senza concorrenti sul mercato, anche se una missione di uno Space Shuttle costava attorno ai 700 milioni, è pur vero che lo Shuttle portava un carico enorme di materiale e fino a 7 astronauti, comunque diciamo che è molto conveniente il sistema russo. Tra poco parleremo anche dei russi, perché qualche problema ce l'hanno anche loro, ma cosa stanno facendo gli Stati Uniti? In questo momento ci sono due strade che si sono aperte. Da un lato c'è la NASA, che sta proseguendo nella costruzione della propria capsula, la capsula Orion, che è nelle mani della Lockheed Martin. Questa capsula era nata quando, ancora 6 o 7 anni fa, gli Stati Uniti pensavano di ritornare sulla Luna. Allora si era dato il via alla costruzione di due razzi, almeno sulla carta, che avrebbero il primo portato nello spazio tutto il materiale che sarebbe servito per arrivare sulla Luna, quindi anche il modulo lunare e in futuro anche tutte quelle parti che avrebbero dovuto costruire la base lunare. Il secondo razzo, più piccolo, l'Ares 1, sarebbe dovuto servire per portare in orbita attorno alla Terra i 4 astronauti che sarebbero dovuti andare alla Luna, poi insieme al terzo stadio di questo razzo più potente, che era stato chiamato Ares 5. Questo progetto è andato nel dimenticatoio, è stato cancellato soprattutto per problemi economici, e quindi di tutto questo grande progetto è rimasta soltanto la capsula che avrebbe dovuto portare gli uomini verso la stazione spaziale. Una capsula che continua a essere sperimentata nei laboratori della Lockheed e che ovviamente verrà costruita entro, si dice, il 2015. Prima porterà nello spazio del materiale e poi si arriverà anche a dover portare degli uomini. Ma ahimè, dietro questa capsula non c'è più quel razzo, l'Ares 1, anche se diciamo la chiusura di questo progetto non è stata proprio definita al 100%, uno spiraglio c'è ancora. Tuttavia questa capsula potrebbe essere lanciata anche da altri razzi che già esistono, razzi che sono sufficientemente potenti per portare uomini attorno alla Terra. L'altra strada invece che si sta percorrendo è quella del privato. La NASA negli anni scorsi ha dato decine di milioni di dollari a diverse società per verificare le capacità, le loro capacità di poter costruire capsule e razzi per poter andare al di là dell'atmosfera terrestre e forse chissà anche un giorno sulla Luna. di queste società una in particolare sta emergendo, che è la SpaceX, che sta facendo le cose davvero in modo serio, in quanto ha già lanciato un proprio razzo, il Falcon 1, e successivamente ha lanciato per due volte un razzo sufficientemente potente tale da poter portare proprio una navicella in orbita attorno alla Terra. Questo razzo si chiama Falcon 9. La navicella che dovrebbe portare dapprima materiale e poi uomini è chiamata Dragon, e questi due lanci che sono stati fatti nel 2010 e nel 2009 sono riusciti così bene che anziché procedere a due nuovi lanci di prova, come era stato previsto nella tabella di marcia di questa società, la SpaceX ha chiesto alla NASA se poteva lanciare direttamente una navicella verso la stazione spaziale. Questo avveniva 6 mesi fa. 3 mesi fa la NASA ha dato l'ok, dopo aver verificato davvero che quel razzo aveva funzionato al 100% e che tutto era andato al meglio. E così ha dato l'ok perché una di queste navicelle il prossimo 30 novembre venga lanciato alla volta della stazione spaziale. Questa navicella però, a differenza delle Soyuz o degli Shuttle o di altre navicelle come quella europea che si aggancia alla stazione spaziale, si avvicinerà alla stazione spaziale, poi spetterà a un braccio robotizzato che è montato su uno dei moduli della stazione orbitante agganciare questa navicella e proprio poi farla agganciare direttamente alla stazione spaziale. Sì, quindi, questo perché l'operazione di docking è un'operazione estremamente complicata. Sì, sì, è forse una delle più complicate con standard che a volte non sono simili. Giusto per la cronaca, per dire che c'è una grossa attività anche dopo la fine del programma Space Shuttle. Oggi pomeriggio alle 15.08 ora italiana è partita una sonda da Cape Canaveral diretta alla Luna. Un aspetto interessante quello che ci ha raccontato Luigi Bignami, cioè di questo settore privato estremamente interessato alle missioni spaziali. Riprendiamo tra un minuto. 2024. L'ultima parte di 2024. Ringrazio oggi Alessandro Balia che si è occupato dell'assistenza al programma, Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica. Vi ricordo che il nostro programma sarà disponibile anche in versione podcast, troverete il file MP3 poco dopo le 17 sul nostro sito internet www.radio24.it nella sezione podcast, dove trovate le ultime 5 puntate, ma se poi andate nella sezione archivio trovate tutte le puntate, anche quelle vecchie dell'anno scorso. Dunque, stiamo parlando di spazio, del settore spaziale con Luigi Bignami, perché quest'estate, vi dicevo, sono successe parecchie cose. La più importante è lo stop, ma del resto previsto, non inaspettato, del programma Space Shuttle, che apre una nuova era. Sicuramente una parte importante di questa nuova era è costituita dai privati. C'è, Luigi, così tanto business anche solamente per lanciare satelliti, che effettivamente sviluppare per un'azienda privata un razzo, una sonda, un sistema spaziale per mettere in orbita o materiale per la Stazione Spaziale Internazionale o satelliti è molto interessante. Mi par di capire che anche noi italiani avremo un ruolo importante, perché stiamo per lanciare un razzo quasi interamente sviluppato in Italia, giusto? Così, un razzo che era stato ideato in Italia e che poi è stato preso sotto il braccio dell'Agenzia Spaziale Europea, e che si tratta del razzo Vega, è un razzo che è in grado di lanciare piccoli satelliti, quindi non dobbiamo pensare ad un razzo in grado di portare uomini verso la stazione spaziale oppure satelliti verso la Luna, ma poiché nel prossimo futuro, ed è proprio la notizia di questi giorni, nel decennio tra il 2011 e il 2020 ci sarà un aumento del 50% dei satelliti rispetto al lancio che sono avvenuti tra il 2000 e il 2010, si capisce che il business di poter lanciare dei satelliti, grandi o piccoli che siano, attorno alla Terra sta diventando molto molto importante. Ormai non se ne può più fare a meno dei satelliti, sia per telecomunicazione soprattutto, ma anche meteorologici e satelliti di ogni tipo. E appunto questa varietà di razzi molto molto potenti come l'Ariane, per esempio, in grado di lanciare anche due o tre satelliti molto grossi o razzi piccoli per il lancio di piccoli satelliti, sta diventando estremamente importante. E infatti negli Stati Uniti soprattutto grandi milionari, non ultimo ad esempio uno dei fondatori di PayPal, ha investito nella società SpaceX un sacco di soldi perché appunto c'è un business crescente. Chiudiamo e parliamo dei russi, perché è vero che oggi ci si affida alla comunità internazionale, Cina a parte, che lavora da sola, ci si affida ai russi per lanciare uomini nello spazio, ma è successo qualche problema. Certamente, circa 15 giorni fa un razzo Soyuz che ormai è utilizzato da decine d'anni per portare materiale uomini nello spazio, mentre portava proprio una Progress verso la stazione orbitante. Le Progress sono quelle navicelle che trasportano lassù materiali, esperimenti, acqua, gli astronauti, è esploso proprio dopo 340 secondi dal lancio, poiché circa 15 giorni prima un razzo molto simile aveva avuto la medesima fine. Beh, a questo punto si è bloccato tutto quanto, perché il medesimo razzo viene utilizzato anche per lanciare gli uomini. Ora c'è stata una ricerca in Siberia dei resti di questo razzo, perché era molto importante poter avere in mano i pezzi per poter capire cosa davvero era successo, ma le condizioni meteorologiche hanno impedito proprio di arrivare a queste aree e sembra che il razzo sia arrivato ad una quota tale prima di esplodere, per cui queste parti del razzo si siano poi bruciate nel rientro dell'atmosfera. Tuttavia, proprio ieri i russi hanno fatto sapere che, analizzando i dati, sono riusciti a capire qual è la motivazione di questo incidente, e ahimè riguardava proprio una valvola dei motori del terzo stadio. E quello che impressiona è il fatto che questo errore, questo tipo di errore, sarebbe stato comunque portato avanti nel tempo, perché nessuno se n'era accorto. Quindi vuol dire che molti lanci sono andati bene e due di fila invece hanno portato all'attenzione questo problema, meno male senza uomini a bordo. Sta di fatto che in questo momento tutti i voli verso lo spazio sono stati cancellati e la prossima missione di tre uomini che dovevano portare, della prossima missione del Soyuz che doveva portare tre uomini alla stazione orbitante è stata cancellata a tempo indeterminato. Quindi si apre anche la prospettiva che i sei astronauti che ci sono sulla stazione spaziale, tre dovrebbero rientrare settimana prossima e tre dovrebbero rientrare a novembre, possano lasciare la stazione spaziale non più abitata. Sarebbe la prima volta che questo accade e non sarebbe davvero un buon segno per le future attività dell'uomo nello spazio. Sì, ricordiamo che per scendere non ci sono problemi, perché agganciate alla Stazione Spaziale Internazionale ci sono due sonde Soyuz, quindi per tornare sulla Terra non ci sono problemi. Eventualmente ci potrebbero essere problemi per mandare altri uomini in futuro. Esattamente, proprio così, perché non essendoci più lo shuttle, il problema è di dover attendere che la Russia dia l'ok al nuovo razzo, comunque allo stadio, al terzo stadio che verrà messo a punto nuovamente, e prima di un lancio con uomini dovrebbe avvenire un lancio senza uomini per poter verificare che tutto quanto è davvero sotto controllo. Quindi stiamo vivendo un momento di forti dubbi su quello che è il futuro stesso della stazione spaziale, anche se la NASA è molto positiva perché segue da vicino questa vicenda e sostiene che molto probabilmente si riuscirà ad evitare un'evacuazione della stazione orbitante, anche perché lassù c'è cibo, c'è materiale e c'è acqua fino all'estate prossima. Quindi si tratterebbe di chiedere ai tre astronauti che rimarranno fino a novembre di prolungare di un altro periodo, magari un mese, due mesi o tre mesi, la loro permanenza. Se questi accetteranno, si potrebbe evitare questo periodo di vuoto tra il ritorno a terra dei tre astronauti e la prossima missione. 30 secondi per l'ultima risposta. Quanto tempo dovrebbe passare affinché gli americani abbiano un sistema di lancio per portare uomini nello spazio? si parla entro il 2018-2019, questa navicella messa a punto dalla NASA dovrebbe essere in grado di poter portare astronauti nello spazio, e le stesse società private danno più o meno questo arco di tempo per poter essere estremamente sicure di far sì che il lancio di razzi possa riuscire, possa portare uomini oltre l'atmosfera terrestre. Grazie a Luigi Bignami, buon lavoro, a presto. Altrettanto e buona giornata a tutti. E così concludiamo questa puntata di 2024. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Torniamo sabato prossimo tra le 15.30 e le 17, il sabato pomeriggio su Radio 24. Il nostro indirizzo di posta elettronica nel frattempo è 2024@radio24.it se volete scriverci per qualsiasi motivo, oppure ci trovate anche su Facebook cercando la pagina del nostro programma scrivendo 2024. Io sono Enrico Pagliarini, la prossima settimana avremo tra gli altri ospite Gianfranco Lanci, che è stato amministratore delegato a livello globale di Acer, e sicuramente sarà una buona occasione per parlare del mondo dei computer, della transizione verso i tablet, del mondo della mobilità e della tecnologia in generale. È tutto, appuntamento a sabato prossimo. 2024. 31 seconds.